America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. This is a description of Saif Gaddafi. He wore a well-cut suit and moved with grace. At 33, he is good-looking and hip, with a shaved head. And he speaks intelligently. Ecco, avete sentito Andrew Solomon, che è il presidente, il chairman del PEN, che è una delle più importanti organizzazioni letterarie americane, forse la più importante organizzazione letteraria americana. Ieri sera sono stato all'evento annuale al Museum of Natural History, devo dire un evento molto bello sotto questa straordinaria, enorme, grande balena a dimensione naturale. Sotto questo grande salone ci saranno state facilmente 600 persone. Andrew Solomon, dicevo, è per 2 anni il president di questa istituzione, che dà dei premi letterari, raccoglie dei fondi per incoraggiare i giovani a scrivere, per proteggere la libertà di stampa. Andrew Solomon, mentre parlava, raccontava della sua esperienza, degli incontri che ha avuto in Libia, i problemi con Gheddafi. Lui ha visitato la Libia, quindi di molte delle sfide che ci sono sul fronte della libertà di stampa. Ha scritto tra l'altro una cosa molto bella proprio su questo suo viaggio libico, ha pubblicato un libro di viaggi in molti paesi, credo addirittura 80 paesi. Ma chi sono stati gli ospiti premiati ieri sera? Per esempio J.K. Rowling, che è l'autrice di Harry Potter, quindi uno dei più grandi opere di questi ultimi anni, ma anche Ahmed Naji, che è uno scrittore egiziano che ha denunciato più volte gli estremismi del regime di El-Sisi, e tra l'altro poi lo cercherò perché mi piacerebbe sentire cosa pensa del caso Regeni, oppure con Leanne Walters, che è stata la prima a denunciare la presenza di piombo nell'acqua di Flint, dove ci sono degli impianti della General Motors. Ecco, perché vi parlo di questo evento? Perché filantropia allo stato puro qui in America, credo abbiamo molto da imparare da attività e iniziative filantropiche. Un altro evento che c'è stato ieri sera, sempre sul piano della filantropia, si è tenuto al Metropolitan Museum, altra location straordinaria, questa volta organizzato dalla NYU, dalla New York University, che ha dato, pensate, il premio come donatore dell'anno a un italiano. L'italiano è Paolo Fresco, il quale l'anno scorso aveva annunciato una donazione di $25 milioni al Langone Center, che è un centro medico, per lo sviluppo di un programma molto interessante, tra l'altro dal punto di vista anche transatlantico, perché ci sono delle ricadute anche in Italia da questa donazione, perché l'idea è di creare un rapporto fra ricercatori italiani e ricercatori americani. E dunque, visto che oggi parliamo di filantropia, parliamo di università americane, siamo nella settimana dedicata appunto a questo grande periodo dove ci sono anche le graduation in America, la copertina della settimana, io con me ai microfoni di America 24 proprio Paolo Fresco. Ci racconti della sua donazione? Ma guardi, l'atmosfera è molto bella, è stata una cerimonia avvenuta al Metropolitan Museum, quindi anche in un ambiente estremamente solenne. Indubbiamente sono molto onorato da questo riconoscimento, che non mi attendevo francamente. Però diciamo che insomma lei ha fatto una donazione molto importante, direi in puro spirito filantropico americano, addirittura 25 milioni di euro tra l'altro del suo patrimonio personale, quindi è una donazione che va a terzi, non è che lei ha fatto la sua fondazione. Cos'è che l'ha motivata questa donazione? Guardi, come al solito confluiscono vicende personali e ideali generali, diciamo. Io ho sempre creduto che sia un obbligo morale di rendere alla società almeno una parte di quello che la società ha dato a te. Questo l'ho imparato in questo paese, perché la filantropia è ben radicata qui in America, come lei ben sa. Poi rimane il fatto che nello scegliere i destinatari di questa donazione e l'obiettivo specifico della donazione ha influito la mia esperienza personale, che è quella di aver avuto mia moglie ammalata di Parkinson, aver avuto l'assistenza direi più che eccellente da parte del NYU Langone Center, e quindi c'era un debito di riconoscenza nei confronti di questo istituto e degli amici che mi sono fatto in questa occasione. Amici antichi come Ken Langone, che è il presidente del centro, e amici nuovi come Bob Grossman, come Alessandro Di Rocco, che è stato direi un dottore unico nei confronti di mia moglie Marlene durante tutto il periodo in cui è stata malata. Ecco, lei ha lavorato in America, è stato vice chairman di General Electric, poi ha lavorato in Italia, è stato amministratore delegato della Fiat, adesso vive a Firenze, quindi ha veramente, come dire, uno spirito transatlantico, e in questa sua donazione ha strutturato la donazione in modo tale che ci fosse anche una ricaduta per l'Italia. Può raccontarci questa cosa, perché è molto innovativa? Sì, intanto la ragione di questa ricaduta per gli Stati Uniti e per l'Italia deriva dal fatto che le risorse finanziarie di cui dispongo sono state tutte guadagnate da me negli Stati Uniti lavorando per una società americana, quindi il mio debito di conoscenza è nei confronti degli Stati Uniti d'America e della società con la quale ho lavorato per tanti anni, la General Electric. Poi ho pensato anche, naturalmente, siccome l'Italia mi ha dato i Natali e l'educazione primaria, era giusto anche che io dedicassi una parte delle risorse che avevo ottenuto al mio paese. Quindi ho fatto una formula abbastanza complicata, devo manifestare la gratitudine per il Nuaiu di aver accettato questa formula piuttosto contorta anche. Io ho detto sì, io faccio questa donazione, vorrei che una parte della stessa fosse destinata a promuovere delle collaborazioni con degli scienziati italiani e con degli istituti italiani. Ecco, questo è un po' il concetto base. Lei crede che questa sua azione potrà portare il buon esempio in Italia? Io cerco sempre di parlare di filantropia dall'America, ma mi accorgo che spesso, purtroppo, da noi le cose sono più complicate. Ma guardi, io credo di sì. Abbiamo già ricevuto delle manifestazioni di interesse, abbiamo già ricevuto delle donazioni anche di dimensioni modeste. Quindi io credo di sì, che potrà essere un buon esempio anche per l'Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo sempre con me i microfoni di America 24, Paolo Fresco, l'avvocato Paolo Fresco. Allora, una canzone che per lei sia significativa oggi, domani, sempre, americana. Ma credo What a Wonderful World di Louis Armstrong. What a Wonderful World, Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!